Balotelli, segna Balotelli, segna Balotelli. Grazie della convocazione, mister. Mister Ginta, finalmente dopo 2 anni di tribuna mi ha convocato, volevo ringraziarla. Non stiamo a dire che sento tutto il giorno Radio 24, la lascio accesa anche la notte, tanto sono sola. Tutti convocati di Carlo Genta. Io adoro, vi convocherò sempre 800 24 0024. Io che non sono Guido Rossi e non assegno gli scudetti, però c'è Franco Piantanita, autore di questo programma, Fabio Cantadone in regia, nemmeno loro sono Guido Rossi e nemmeno loro assegnano gli scudetti. Però qui nella terra dei cachi, come dicevamo ieri, o nella terra dei tarocchi, che a me piace anche di più, è il tempo dell'apertura degli archivi di Stato, è il tempo dell'outing selvaggio. È il rigore, sì o no? Il pallone è dentro o fuori? È un fallaccio da espulsione o non c'era volontà? C'è anche il gol per la Roma. Lo trova Turone con un preciso colpo di testa a seguito di questa azione. Eccolo, ma il guardaline dice che il Pro de Ramon è in fuorigioco. Il punto viene annullato. E allora quel giorno lì non c'era la Viola, perché c'era un po' di sciopero nelle televisioni. Allora solo la sera dopo Viscari fece un casino con Moviolone, che poi non capì niente, ma sa lui quello che sa montare le cose. Nessuno capì niente, se c'era o non c'era. Fischia, urla e se ne va. È stata usata per la vicenda Turone, una volta tanto non c'ero perché ho fatto la settimana bianca, cosa che non ho praticamente mai fatto in vita mia perché non so sciare. Dammi la moviola, dammi la moviola. La moviola dimostrò che il gol era irregolare. Sì. Allora? Che Turone era oltre la linea di Prandelli. Ah, quindi, poi però a Roma, con un marchingegno particolare, dimostrarono che invece non era in fuorigioco. Che non era vero, perché hanno... Quindi l'hanno un po' acchittato, pro domo proprio. Infatti, così. Ma Turone era in fuorigioco. La gente non... Ragazzi, questa è una storia meravigliosa, compreso De Laurentiis, che quella domenica dell'86 per la prima volta era in settimana bianca, per la prima volta in vita sua. Non potevamo oggi non parlare con Aldo Viscardi. Sono qui. Direttore, chiamato direttamente in causa da Giuliano Sancini, direttore dell'epoca, il giorno dopo Viscardi fece un casino. Alla luce di questi fatti, che cosa mi dici? Beh, io ho fatto vedere questa moviola, no? Che era la faceva Sassi la domenica sportiva, io non feci altro che ripetere quella, e venne fuori che col Turone era fuori gioco e la Roma era infuriata. Io c'avevo il presidente della Roma in diretta, c'avevo Marianetti, che allora era segretario della CGL, che era un tifoso romanista, e quindi c'avevo il direttore di giornali e tutti a vedere questa cosa qui, e fu una cosa enorme. Tanto più che una settimana dopo io ebbi in diretta, perché Platini aveva avuto un premio di migliore giocatore europeo, vi ricordate? Certo. E Pippo Baudo faceva una trasmissione in diretta, in esclusiva dall'Europa, da Parigi, e c'era Platini tra gli invitati. Allora io ho detto, la Juventus non dava giocatore al processo, perché dopo questo fatto di Turone si sono arrabbiati. Allora io ho detto con Paolo, vabbè, di se fare un'eccezione Platini, non gli chiedo niente, dice, però non gli chiedere niente alla moviola di Turone. E io non gli chiesi niente, alla fine però, dentro che era tutto un clima particolare, ho detto, vabbè, allora Michele, dimmi una cosa, tu come l'hai visto con Turone? Ai, adesso mi fanno la multa, mi mandano via la Juventus. Finì così, ecco. Sì, ma tu ci credi al telebin taroccato dell'86? Chi l'avrebbe taroccato poi? Non lo so, questo è da scoprire. Io ho visto soltanto la moviola di Sassi, sì. Allora io non facevo la moviola, cioè riprendevo la moviola di Sassi, perché Sassi l'aveva inventata la moviola. Sì. Io poi inventai il moviolone, che era un hanno nulla, e lo usa ancora adesso, sì. Null'altro che la moviola ingrandita, ecco, questo è il punto. Sì. Quindi a questa storia del telebinta roccato non crediamo. No, io non quello, credo. A quello che dice Sassi. Certo, ha ragione. Chi l'avrebbe taroccato però, secondo le voci? Questo non si sa. Allora la domenica sportiva la conduceva Gianfranco De Laurentiis, che però quella domenica dell'86 era in settimana bianca, quando fecero casualmente vedere a 5 anni di distanza. Ma Gianfranco De Laurentiis, se non sbaglio, era juventino, no? Ma non so. Era un tifoso juventino. Non lo so, dimmelo tu. Gianfranco De Laurentiis, cioè, lo potete avere in collegamento. Aldo, mancano solo 31 anni e poi sapremo tutti retroscena del gol di Muntari fra 31 anni. Esatto. Beh, finalmente. Io non ci sarò, perché cazzo, 33 anni ho avuto il premio di Guinness dei primati mondiali, perché con lo stesso conduttore ho mai fatto una trasmissione così, ho ringraziato proprio veramente di cuore questa istituzione inglese che mi ha dato questo riconoscimento, certo. Però spero di vederlo in qualche modo, ma altro mondo, che te devo dire. Ma sarai ancora lì a condurre il processo del lunedì fra 31 anni? Continuo a fare la battaglia per il processo. Adesso ti do una notizia buona, perché il Sepp Blatter, il presidente della FIFA, si è arrabbiato con Platini, il presidente del sì, okay? L'ho visto. Ma quando ci mette a mettere la moviola in campo, hai favorito la formazione di 5 arbitri, una pattuglia di arbitri partito per partito. Adesso sono 5 gli arbitri, sì. 10 occhi che pesa. E continua ad essere gol irregolari, partite irregolari, casini di tutti i generi, polemiche roventi. Certo. Ci vuole la moviola, perché l'hanno messo tutti gli spot. E sì, per la prima volta l'ho ufficializzata ancora una volta, proprio ieri. Sì, sì, e oggi sì, lo porto in tutti i giornali, che dal prossimo campionato mondiale ufficiale ci sarà la moviola in campo per quanto riguarda il gol non gol, almeno. Beh, questo mi sembra fondamentale. Oh, Aldo. È un primo poi passo. Tieni conto che stanno facendo la battaglia politica, no? Che esatto, bravo. La paraculaggine non ha limiti in questi frangenti. È anche la faccia addosso, ma non vedete che ci guardano. Non voludono niente. No, ma vedete che gli episodi sono le assemblee arbitrali. Diciamo, durante la partita sono ancora tanti. Ma il campo del Modellone. Ma certo. Le assemblee arbitrali di quest'anno sono di quanto di peggio propone il campionato, caro Aldo. Allora vi do un particolare. Giorni fa, io facendo Milano-Roma, perché la trasmissione la faccio quasi sempre a Milano, no? Sì. Ho trovato all'aeroporto Nicchi. Nemmeno ricordavo, ma sono stato come ti mandi il bello? Vabbè, tutto. E allora Nicchi, ho detto, ma tu ti ricordi quando venivi a fare la moviola, come l'hai fatta per 3 anni? Dice, come no? E diceva che ci voleva la moviola in gamba, ma come presente gli la moviola in gamba non la vedi più. Cioè, vabbè, ma adesso è un'altra cosa. Hai capito? Quando faceva la moviola in gamba, diceva che ci voleva la moviola in campo. Adesso il presidente degli arbitri, ma adesso è tutta un'altra cosa. Vabbè. Non rilascio dichiarazioni. La politica è una brutta bestia, caro Aldo. Grazie, bravo. Direttore. Ciao, grandissimo. Bocca al lupo. Grazie anche a te, Aldo. Continuate a combattere le battaglie reali, quello che ci vuole. Ma certo, infatti siamo qui a parlare a 32 anni di distanza di questo gol di Turone, che è saltato fuori dagli archivi di Stato. 800 24 00 24, tocca a voi, perché a me questa faccenda diverte un sacco. Adesso voi comincerete con gli insulti, con le dietrologie, con di cosa stiamo parlando? Parliamo di Italia-Brasile. Domani, a proposito, sono giorni del revival, no? Rispunta il gol di Turone dell'81, rispuntano anche i gol di Pablito Rossi dell'82, l'ultima volta che abbiamo battuto il Brasile. E guardate un po', rispunta anche il nome di Totti per la nazionale, a proposito del revival. Strade. Dammi la moviola. Dammi la moviola. Tutti convocati. Ragazzi, qualche volta siete veramente dei fottuti snob, eh? Voi che scrivete messaggi 349-238-6666. Invece è divertente parlare con Aldo Biscardi. Io mi diverto a sentirlo, mi diverto a sentire la sua voce, a raccontare questi retroscena e queste storie che fanno parte della nostra storia televisiva, che fanno parte del nostro calcio, piacciono o no. Non sono mai stato un fan sfegatato del processo di Biscardi, ma mi diverte, e la cosa importante è sempre divertirsi. Allora, chi si diverte di sicuro è Ramon Turone, autore del gol non gol più famoso della storia, che ovviamente è stato in questi giorni interpellato da mille giornalisti. Uno di questi ad uno di questi del giornale ha risposto: sono a Roma da amici, mi hanno già chiamato quattro giornalisti, sbuffa l'ex difensore giallorosso. Sinceramente non mi interessa quello che può aver detto quello lì. Sassi che il mare ha consumato, sono le mie parole d'amore per te, dice Ramon Turone, citando una ben nota canzone di Gino Paoli che non ho il coraggio di cantare io. Non ho proprio più voglia di parlare di questa storia, purtroppo quello che è successo e sia. Però è divertente tornarci su adesso, dopo appunto questi retroscena che sono stati raccontati da Sassi, ma dallo stesso Gianfranco De Laurentiis, di questa storia del Telebim, che non so chi se lo ricorda. Chi se lo ricorda certamente ha una certa età come il sottoscritto. Giovanni da Roma, buongiorno. Niente, io ero piccolo. Sì, anch'io. Ero bambino, grande tifoso della Roma. Totti aveva 5 anni, andava all'asilo. Allora, io ero del 70, signor Carlo, quindi forse ero un po' più grande di Totti. Sì. Vabbè, ci ho fatto male, però noi della Roma, a parte, siamo abituati a soffrire, perché quando si vince uno scudetto qui è festa nazionale. Non siamo come i juventini o i milanisti o gli interisti, che loro sono abituati. Però la cosa che mi ha dispiaciuto di più è che ho pianto veramente la finale di Coppa dei Campioni. Vabbè, sì, certo. Lì è stata brutta, Altra pagina leggendaria, altra pagina leggendaria del nostro calcio, no? Con maledetto. Ma ricordo le lacrime di Venditti, noi, no? Siamo andati la notte per prendere a cantare tutti grazie a Roma, per prendere il posto per entrare allo stadio. La notte, il giorno prima. La notte precedente, certo, che mica come adesso che c'era il numerino. La follia pura, però vede, anche la storia recente dimostra come giocare alle finali in casa sia qualcosa di estremamente pericoloso. Basta guardare cosa è successo nell'ultima tra Bayern Monaco e Chelsea. E quella fu una partita leggendaria, col contorno di Falcao che si prese il cazzotto di Bartolomei perché non volle tirare quel rigore, e mille leggende che ogni tanto riviviamo ancora adesso, no? Dicevo prima, sono i giorni del revival, ma è bello così ogni tanto, ogni tanto è bello così. Angelo, Roma, 800 24 00 24, fatevi vivi. Angelo, buongiorno. Buongiorno a lei, e senta, telefonando da Roma, credo che lei possa già immaginare quale può essere il mio giudizio. Sono passati 31 anni e siamo concordi, però io mi ricordo perfettamente quel periodo dove l'arroganza, la presunzione di bagliette bianco-nere potevano permettersi di tutto, insomma. Mi farebbe piacere sapere in che modo è stata taroccata questa partita. Perché è facile dire è stata taroccata la moviola e la cosa finisce lì e stendiamo un velo pietoso. Perché da quello che mi ricordo io e da tutte le varie ripetizioni, no, io non mi ricordo. No, non allora, riesco a immaginare in che modo. Allora, tecnicamente non lo so nemmeno io. Non lo so nemmeno io, anche perché non è stato spiegato. Ma la verità è che quella sera Domenica Sportiva, lo dice lo stesso Carlo Sassi, non si capì nulla, cioè non si capì perfettamente dalle inquadrature che avevano, che non sono quelle ovviamente di adesso, non si capiva esattamente se Turone fosse o meno in fuorigioco. Poi con il Telebim, che si ricorda era una proiezione fatta con il computer, lì magari qualcosa si poteva fare. Poi è stato visto che il gol di Turone era effettivamente in fuorigioco, e adesso salta fuori questa cosa del Telebim con il trucco. Poi tutto da dimostrare, ognuno dice le sue, De Laurentiis che era in settimana bianca compreso. Allora, abbiamo un altro ospite mentre vi aspetto. 800 24 00 24, numero verde. Dammi la moviola, dammi la moviola. Quanti Massimo Zampini, Massimo Zampini che è già stato ospite a questi microfoni, romano, juventino, ha scritto il libro Ergo de Turone. Sì, salve, che adesso... Ciao Massimo, adesso dovrai rivedere qualcosa? No, no, no, il mito rimane, non voglio che sia intaccato e sono qui per difenderlo strenuamente. Sei lì per difendere strenuamente la posizione di fuorigioco di Turone, giusto? No, no, no, Turone, io sono juventino e tutto, come l'altra volta mi avevi sentito sul gol di Montari, quindi io ironizzo su questi errori, ma se mi toccano... Gol di Montari, te l'ho detto, fra 31 anni scopriamo cosa c'è dietro. Infatti probabilmente scopriremo la verità, ma forse non era entrata mai poi quella palla, detto tra noi. Forse insomma, non è mai stata giocata quella partita. No, comunque no, dicevo, sono qui comunque anche se sono juventino, anche se io devo difendere il mio nickname sui forum, il titolo del mio libro, il gol di Turone, e che il mito rimanga, quindi deve essere un gol buono, regolare, annullato ingiustamente, deve essere l'ennesimo furto dei ladri. Cattivi, allora sei tu che hai truccato il telebim. Ma è chiaro che io ho tratto dei vantaggi, ora non posso confermare di essere stato io, è chiaro che ne ho tratto, non smentisco, non confermo, ma ne ho tratto dei vantaggi innegabili. Eh beh sì, anche perché insomma voleva farla passare sotto silenzio, ma Carlo Sassi che dice è stata acchittata la moviola a Roma, insomma, ecco, fa un certo effetto. Che, No, poi detto, parlando un po' più seriamente, la cosa che un pochettino mi... tra virgolette inquieta, ora al di là di come sia stata eventualmente taroccata o meno, se lì anni dopo, è il fatto che Carlo Sassi fa una dichiarazione del genere il 25 febbraio in una trasmissione su Radio 2 e questa per 20 giorni, finché un sito juventino, juventino vero, non la tira fuori, nessuno presta attenzione a questa cosa. Esatto. Quindi questo è per dire che secondo me rimane il motivo che mi ha portato poi a scrivere quei due libri e dare quei due titoli. L'alone del mistero, Sì, esattamente, che mediaticamente comunque un qualcosa che rivela un qualcosa in favore della Juventus non tira tanto quanto un errore, un errore diciamo che l'ha avvantaggiata, secondo me. Questo rimane il mio pensiero, come si vede in questi giorni su qualche piccolo errore in favore del Milan arbitrale, piccolo e molto casuale, non ha lo stesso appeal per la Gazzetta e per tanti altri che avevano gli errori in favore della Juve che portavano a fare i titoloni. Questo rimane il mio pensiero di fondo e vale anche per Turone. Non fare il polemico, non fare il polemico, se no ti mando a scuola di buone maniere da Conte. Ah, quella sarebbe, la farei molto volentieri, a seguirei. Sì. Cosa dici dell'esultanza di Conte? Colposa, no, dolosa, giustificata? No, dico che personalmente io come juventino e come sono abituato a vedere la Juventus mi sorprende vedere un'esultanza del genere. Quando l'ho visto ho detto, ma che sta facendo? Da questo a passo, quindi io personalmente magari posso anche non ritrovarmici, da questo a farne una condanna, cioè ognuno esulta come gli pare finché non offende. Sì. Mi sembrava più offensivo magari la maglietta anche scherzosa di Totti che diceva vi ho purgato ancora i laziali, cioè là c'è una presa in giro ai rivali. Se tu esulti dicendo esultiamo e godiamoci questa vittoria, può essere più o meno esagerata ma non offensiva. E Totti che quel giorno che fece 4 sono tanti? Con le manine. L'ha pagato perché poi per 10 anni non 4, ha vinto più contro la Juve, tanti, a Roma ne ha presi 4, ne ha presi 4 altre 10 volte contro la Juve, quindi non bisogna mai poi, ecco, quello per me però è sfottere, ci può stare anche quello, è niente di grave, ma a me non piacerebbe, ecco, che si sfottesse l'avversario, tipo andate a casa o cose di questo tipo. Se tu inviti il tuo pubblico a esultare non c'è niente di male. Massimo, io ti ringrazio come sempre. E adesso aspettiamo un altro clamoroso gol non gol per scriverci sopra un terzo. Io sono qui in attesa solo di questi episodi. Alla prossima. Grazie, ciao Massimo. Carlo, grazie mille. Ciao. Grazie a Massimo Zampini. Ci fermiamo, dobbiamo fermarci per la borsa, ma poi torniamo 800 24 00 24. E viva un'altra puntata anti-Juve. Ma dove anti-Juve? Stiamo dicendo che Turone era in fuorigioco. Ma dove la vedete questa anti-juventinità? Anzi, sono giorni in cui gli juventini sono strafelici perché viene sancita, se ce ne fosse bisogno 32 anni dopo, la piena legittimità di una grande chiamata, perché questo bisogna dirlo, di una grande chiamata del guardaline Giuliano Sancini, che era l'abituale assistente, perché allora c'erano eterne fisse, di, sapete chi era l'arbitro? Bergamo e chi se no. Borsa. Dammi la moviola, dammi la moviola. Tutti convocati.

sicuramente gli ultimi 10 minuti contro la Francia sono stati veramente difficili, perché loro ovviamente non ci stavano a perdere, e noi abbiamo stretto i denti, eravamo tutti stanchi, ma diciamo era una partita che volevamo assolutamente portare a casa a tutti i costi. Quindi diciamo, a me è capitata l'ultima occasione di buttarli fuori, e non potevo fallire proprio io, dopo che per 80 minuti tutti avevano sofferto, e soprattutto negli ultimi istanti della partita tutti avevano fatto più del loro lavoro, diciamo, per cercare di contenere i francesi. Quindi ti è toccato fare Buffon, dai. Esatto, dai, dovevamo farlo. Sì, oltretutto la migliore difesa italiana nella storia del Sei Nazioni. Sì, no, ma ci sono molti, molti numeri a documentare la mia impressione, o la nostra impressione, che sia stato il miglior Sei Nazioni da quando siamo lì. Ma quanti margini abbiamo di crescita? Perché comunque, Gio, nessuno mi leva dalla testa che arriva il tecnico francese e noi ricominciamo un percorso. Beh, sicuramente il lavoro del nostro allenatore Jacques Brunel credo si sia visto. Lui è una persona molto pragmatica e comunque un allenatore che dà tanta serenità, è fiducioso, ha fiducia ai suoi giocatori, e quindi tutte queste sue qualità, diciamo, le passa anche a noi. Dunque riusciamo a essere più determinati, a essere più tranquilli, a provare a giocare con la testa un po' più libera, e tutte queste cose si sono viste. C'è tanto lavoro dietro sicuramente, sia suo che nostro. Comunque sì, si è aperto un ciclo con tanti nuovi giocatori, con questo nuovo allenatore che sicuramente ci ha già dato tantissimo, nonostante sia solo un anno che è seduto sopra quella panchina, e comunque andiamo avanti, non ci siamo assolutamente fermati. Abbiamo già adesso a giugno una tournée molto molto dispendiosa e importante, e cercheremo di continuare a fare dei piccoli passi in avanti. A proposito di tecnici francesi, tu giochi nelle Zebre, questa franchigia neonata, con il capo allenatore che è Christian Gajan. Ecco, a questo punto le Zebre, che dall'inizio della stagione sono andati tante volte vicino al risultato positivo, ma purtroppo finora hanno sempre perso sia nella ex Celtic League sia in Heineken Cup, devono raggiungere una vittoria. Qui ci vuole un altro miracolo, o forse non è neanche un miracolo. Beh, sicuramente ci dispiace tantissimo essere arrivati a questo punto della stagione e avere ancora la casella delle vittorie a zero, però purtroppo sì, ogni partita è stata molto difficile, soprattutto in tante siamo andati veramente, veramente vicino, poi a volte per sfortuna, a volte per piccoli sbagli o per qualche cos'altro siamo sempre riusciti a perdere purtroppo la partita. Adesso ne rimangono 5, di cui 4 in casa, quindi speriamo che il pubblico di Parma ci spinga un po' per questo scorcio di stagione, e noi ce la mettiamo tutta, perché ovviamente non ci siamo neanche noi a finire il campionato in questa maniera. Per quanto riguarda il nostro allenatore che si è ingaggiato, anche lui è una persona che dà tanta serenità, dà tranquillità all'ambiente, e non è facile in un ambiente come il nostro, dove appunto i risultati sono quelli che sono. Quindi da parte sua è sicuramente un ottimo lavoro, perché i miglioramenti ci sono stati, speriamo anche di farli vedere, diciamo, con qualche vittoria. Io devo chiedere il permesso anche a Carlo di fare una domanda leggermente extrasportiva. Sappiamo che Giovan Battista Venditti è un cattolico convinto, sappiamo che sua mamma da credente, quando lui era piccolo, per modo di dire, ma già molto grosso, pregava prima dei tornei, ma pregava per gli avversari del figlio. E allora oggi un collega, quando ha saputo che ci saremmo collegati, mi ha chiesto, chiedi a Venditti che cosa pensa del Papa. Poi oggi ho del Papa nuovo, ovviamente, ho anche scoperto che il Cardinale Bergoglio ha giocato a rugby in gioventù, sì. Quindi questa domanda le te ha fatte la faccio. Tutte, sì. Le ha fatte tutte il nuovo Papa. No, sicuramente sono molto contento, il nuovo Papa è sempre un momento emozionante, quando si affaccia quel balcone, diciamo, sì, le prime parole, credo anche le persone un po' lontane dalla Chiesa abbiano sicuramente sentito qualcosina. Io devo dire che sono molto contento, perché comunque dalla Chiesa ci si aspettava una rivoluzione, e una piccola rivoluzione c'è stata. Comunque il primo Papa gesuita, il primo Papa che viene dall'America Latina, quindi secondo me è uno che la povertà veramente la conosce da vicino, e il modo umile con cui si è presentato al mondo credo sia emblematico. Sicuramente potrà fare tanto, e ha già iniziato il suo cammino. sicuramente tutti noi fedeli pregheremo per lui affinché appunto riesca in tutto, quello che vuole fare. Comunque sono molto, molto soddisfatto. Grazie Giovan Battista. Prego. Grazie. E chiudiamo con un messaggio di Piero. L'anno prossimo arriverà la prima vittoria contro l'Inghilterra, sarebbe anche la prima contro una squadra che è stata campione del mondo. È vero, ed è l'unica squadra che l'Italia non è riuscita a battere mai fra quelle europee. Ci resta questa montagna. Però ci siete andati vicino, Giovan Battista, anche quella palla all'ultimo che eri riuscito a prendere un po' da giocoliere, insomma, stavolta li abbiamo fatti tremare, poi vedremo. Sicuramente ci riproveremo l'anno prossimo, da qui al prossimo Sei Nazioni c'è tanto tempo, quindi abbiamo tutto il tempo per prepararci bene e per continuare a migliorare. Poi vengono nella nostra tana, quindi esatto, per l'anno olimpico non sarà facile. Li aspettiamo qui, grazie a tutti, grazie a Giovan Battista, grazie Venditti, a voi. Grazie a Giacomo Bagnasco, adesso ci fermiamo per il traffico e poi torno a parlare con i miei amici convocati. 800 24 00 24, spero che nel frattempo si siano dati una svegliata, 1 2 3 via, tutti convocati. Patrizio Torino, buongiorno. Buonasera a tutti. Buonasera, buongiorno, ancora presto. Anzi, nonostante, nonostante ci sia un buio cane, Dunque, buonasera, perché sono molto emozionato, volevo tornare sul rugby, sì, di cui ho una passione travolgente. Sì. E prima vorrei dire dal lato tecnico che il prossimo anno naturalmente l'Italia vincerà il Sei Nazioni. E vabbè, adesso questo ottimismo, questo sì, ottimismo. A mani basse. Addirittura a mani basse. Basterebbe avere due o tre arbitri italiani, sì, a livello internazionale. Sì, questo è vero. Questo è una nota a margine molto corretta. Ma io mi fermo qua, per sì, ovvi motivi. E dove vuole andare? Da Biscardi? No, per carità. No, grazie. No. E mi fermo qui, basterebbe avere qualche abito. E poi ho chiamato, sono molto emozionato, perché si parla di rugby, perché è un'occasione per tutti gli italiani avvicinarsi a questo sport, per distinguerci, per cambiare il nostro modo di pensare, per migliorarci a livello educativo e forse anche sociale. Guardi, io sarò banale, sarò anche cinico, ma i risultati della nazionale di rugby sono lo sport migliore, sono il volano migliore per, forse anche l'unico, se vogliamo essere sinceri fino in fondo, per dare il massimo del risalto a questo sport, perché insomma, a me non piaceva l'epoca delle onorevoli sconfitte, mi ero rotto le scatole delle onorevoli sconfitte, erano pur sempre sconfitte, e se ci si abitua a questo refrain significa che la strada non è esattamente quella corretta. Adesso, dopo l'ennesima parentesi con un tecnico dell'altra parte del mondo che evidentemente con noi non funziona, siamo tornati a vincere le partite, perché alla fine si può essere bravo, bello, fotogenico, fare mille spot, essere glamour, però se non vinci, stiamo parlando di sport, e se non vinci le partite, sportivamente parlando, moltissimo non vali, e la nazionale è il treno dell'intero movimento. Patrizio, grazie, torni a trovarci, convocato quando vuole. Alessandro, Roma. Sì, buonasera. Buonasera. Pronto? Sì, vediamo se riesco a sentirla, perché fino adesso non ci sono segnali incoraggianti. Dica. Volevo portare la mia testimonianza sul quanto Venditti è veramente una brava persona. Oltre che un ottimo giocatore. Domenica mattina lui era presente, non so se l'ha detto in trasmissione, ad un torneo di rugby giovanile a Roma. Sì. Il giorno dopo la sua splendida meta contro l'Irlanda, si presenta alle 11 di mattina, quando erano tutti i ragazzini in campo dell'Under 12 a giocare, è rimasto fino alle 3 di pomeriggio a premiare, a fare le premiazioni, ad essere presente con noi. Ho scambiato due parole, veramente una gran brava persona che identifica proprio lo spirito. È un atleta, Alessandro, è un atleta e uno sportivo vero, quindi non servono tantissime parole, è quello che molti dovrebbero fare e che molti magari fanno anche al riparo delle telecamere, anche nel calcio qualche volta succede, è chiaro, dovrebbe succedere un po' più spesso, però i grandi sportivi sono fatti così, secondo me. Macchina per no, vabbè, ma i grandi sportivi sono fatti così, cioè vanno a raccogliere anche questo tipo di soddisfazioni personali nel contatto con il loro mondo, che può essere anche quello di chi si approccia a questo sport, ma non servono le telecamere, neanche la pubblicità, io credo. Un'ultimissima cosa, dica. No, io credo invece, contrariamente all'amico precedente, io credo che noi vinceremo se nazioni quando all'Olimpico smetteranno di fischiare sui calci piazzati con certi gli avversari. Mm. Sì, non so se insomma ci possa essere un riscontro pratico, diciamo così, che se quei fischi non ci fossero, vincere o non vincere se nazioni cambierebbe poco, però saremmo più in linea con l'eleganza del pubblico di questo sport sui campi che contano. Valerio, Ravenna. Sono qua, eccolo là. Sono qua. Anch'io. Allora, volevo portare, purtroppo è il tormentone che non finisce, però volevo portare, sì, la mia testimonianza sull'esultanza di Conte. Sì. Perché io c'ero e non è saltato fuori sui giornali quello che è successo davvero. Cioè, quello che è successo che ormai la partita era finita, il Bologna perdeva 2-0, c'era probabilmente un po' di frustrazione in tutto lo stadio bolognese, e così è partito un coro che è diventato forte ed importante, un classico Juve shit, detto in inglese, e a quel punto Conte si è immedesimato nel capo ultras, rivolgendosi alla curva dei tifosi juventini, che è la curva di San Luca, Bologna, sì, e praticamente aizzandola per fare in modo che venisse coperto questo coro. Sì. Quindi tutto detto parte che, da questo. Detto che gli allenatori devono fare gli allenatori e non gli ultra. No? Non c'entrano le uova, non c'entra il pullman. Semplicemente a fine partita i tifosi bolognesi erano un po' frustrati, hanno fatto partire questo coro. Però Valerio, è una sua lettura, cioè che Conte sia. No, lo so, no, ho capito. Lui si è alzato la panchina quando questo coro andava avanti da circa una quindicina di secondi. Sì. Lui si è tirato fuori dalla panchina e ha cominciato a issare, sbracciandosi per fare in modo che i tifosi juventini con i loro cori coprissero questo coro. A proposito di eleganza di comportamenti ambolati. È finita la partita, lui ha dato velocemente la mano a Pioli, che è l'allenatore del Bologna, e poi si è camminato velocemente verso l'uscita. A quel punto Pioli, che era insieme a Caliceti, che è responsabile sportivo della comunicazione del Bologna, e a fianco a loro c'era anche Alessio, sì, gli ha detto: Antonio, non si fa così, no, ci vuole detto, rispetto. Sì, no, ma questo è stato documentato dai microfoni. Antonio, non si fa così, ci vuole rispetto. Ha detto ad Alessio, digli che ci vuole rispetto. Questo l'abbiamo, è pubblico, perché è stato fatto sentire dai microfoni di Sky in questa sorta di fuori onda. Ha detto ad Alessio, digli che ci deve rispetto, eccetera eccetera. Sì, io tenderei a non ingigantire questo episodio facendolo più grande di quello che è. Ripeto, la Juventus su ogni campo viene accolta prima, durante e dopo in maniera non elegantissima, per usare dei pallidi eufemismi. A Conte è facile saltare i nervi e qualche volta va sopra le righe, ma secondo me è andato sopra le righe più nelle dichiarazioni che non nei comportamenti in campo. Alfredo da Genova. Sì, buonasera, grazie per avermi richiamato. Io sono tifoso juventino. Io credo che sia una credine ormai esagerata, spropositata contro la Juventus. Questo avviene da molti anni, avviene durante le trasmissioni, come il processo di Biscardi, avviene nelle trasmissioni locali, e la situazione va sempre più peggiorando, e la dimostrazione ne è il fatto che ancora oggi, dopo qualche giorno, si parla di una sciocchezza come quella di un'esultanza. Sì, si ingigantisce un po' questo episodio, sono d'accordo sul fatto E si sia parlato, ma veramente molto, molto, molto poco, del comportamento che ogni volta, quando la Juventus va fuori a giocare fuori casa, subisce. Si è parlato molto poco, per esempio, del fatto che Asamoah non ha potuto giocare, non ha giocato contro il Napoli, perché pochi minuti prima era arrivata una pietrata contro. No, ma infatti io credo sì, Alfredo, io credo però che questo quanto lei sta riferendo, insomma, noi lo diciamo da giorni, ma non è una giustificazione per andare sopra le righe. È certamente un clima che si è instaurato nei confronti della Juventus che mi sembra tornato ad essere carico di un odio insensato. Questo è così, perché è così. Sandro da Belluno, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire per il fatto del gol di Turone, là che si sta parlando questi giorni. Sì. Secondo me, alla fine, che fosse stato gol, non fosse stato gol, alla fine se l'arbitro ha visto che non era gol, punto e basta, sì. Ormai fa parte, secondo me, della storia. Ma certo, ma è bellissimo che sia così, no? Ma io trovo sia tutto molto divertente. La piglio naturalmente sul ridere, perché siamo qui 32 anni dopo ad aprire gli scatoloni e a dire che magari c'è stato qualcosa di poco chiaro nel telebeam. È tutto molto ridicolo. Se la prendete sul serio, vabbè, non so cosa fare. Siete miei amici lo stesso, siete convocati lo stesso, ma non adesso, domani alle 2. 800 24 00 24, vi aspetterò sempre. Franco Piantanini, autore di questo programma, Fabio Cantadone in regia. Ciao.